4, 3, 2, 1, ok, 4, 3, 2, 1, c'è il 4, dopo il 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ok, 4, per una mano, 3 perché si muove piano, 2 per come mi chiamo, e 1 è per il suono metropolitano, 4 è per il rap, 3 va alla break, 2 sempre per come mi chiamo, e 1 perché è metropolitano. Giro con i mic sempre attorno. Dov'è? Stai tranquillo, non sono Mike, buongiorno. No, no. Non faccio quiz televisivi, ma seguo uno dei quattro stili, quello accompagnato dai vinili, che grazie ad una mano due piatti crea un suono strano. Gira. E questo è lo stilo della strada che la gente come me ad ascoltare è abituata. Sì. Per questo fondo le mie armi, arsenale di pistole, no di parole, che dette abbiano un senso compiuto. Non c'è trucco, basta essere astuto. Cento in pieno, ogni mio concetto. Tiro e dado, tanto ormai è tratto. Il fatto poi viene da sé, basta che la cultura in sto ragazzo c'è. Okay. Non parlo con la bocca di un bambino, non guardo con gli occhi di un cecchino, ma ascolto semplicemente hip hop, musica letale che ti manda direttamente sotto shock. Sì, con sì. Flow, rime, metriche, tattiche, ne ho miliardi di modi per risolvere pratiche di freestyle o di battaglia. Per i miei fratelli, dedicata alla mia famiglia, ok, 4 per una mano, 3 perché si muove piano, e 2 per come io mi chiamo, e 1 va al suono metropolitano, 4 è per il rap, ok, 3 è per la break, 2 sempre per come mi chiamo, e 1 è perché è metropolitano. Suono metropolitano, se tu sai come io mi chiamo, segui i miei ideali lineari, come sono i binari, con tutta l'esperienza. Passa il tempo, ma non è mai abbastanza, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Sinonimi, concetti, oggetti da rappare, organizzando frasi dure o d'amore. Lo faccio sempre con tutta la mia passione, e nel momento seguire basi, formulando frasi, rispettando tutti i casi. 4 per una mano, 3 perché si muove piano, e 2 per come mi chiamo, e 1 è per il suono metropolitano, 4 è per la break, 3 è per il rap, ok, 2 sempre per come mi chiamo, e 1 è perché è metropolitano. Questo è il suono nero, con questo flow in Italia mi sento straniero. Io seguo una cosa tramandata dagli United States, creata apposta per noi DJ, MCs, writer e b-boy, che con questo suono si muovono a tempo. Artisti di scuola, no, di cemento, che lo fanno per scelta. Nella vita si fa solo una volta, un'arte con un solo pensiero, che a me come a tanti altri piace per davvero, ok. 4 per una mano, 3 perché si muove piano, ok. 2 per come mi chiamo, e 1 è per il suono metropolitano, 4 è per il rap, ok, 3 è per la break, 6, 2 per come io mi chiamo, e 1 è per il suono metropolitano.